Ad alta voce. Francesca Gatto legge Grace Paley. Da qualche altra parte. Ventidue americani stavano facendo un viaggio in Cina. Io ero fra loro. Facevamo molte fotografie. Avevamo imparato a dire buongiorno, ciao, posso fare una foto? Spesso la gente non voleva farsi fotografare. Ma perché? Chiedevamo noi. Facciamo una foto per ricordare meglio il popolo cinese, per poterne parlare ai nostri amici dopo cena e tenere incontri con diapositive nelle chiese e nelle scuole. Sinceramente, lo facciamo pensando alla politica, se non proprio solo per questo. Il signor Wong, guida politica del Travel Service, disse che era per via del film di Antonioni sulla Cina e del suo diffamatorio interesse per il fascino arcaico. Nel suo sciovinismo borghese, Antonioni aveva considerato la Cina come il soufflé dell'Europa, che cresce e cala a seconda del nutrimento infuso dagli investimenti di capitale americano e dall'arte di avanguardia. Il signor Wong disse che l'attenta vigilanza del popolo non ci avrebbe consentito di imitare il disprezzo di quel regista per le tecnologie che si manifestavano visibilmente nell'acciaio urbano e lungo tutte le terrazze di riso e soia e grano. Un giorno, nella sala riunioni dell'albergo, il signor Wong disse: «Voi non amate il popolo cinese». Ora, questo non avrebbe dovuto dirlo. Questo ci fece smettere di ascoltare, soprattutto Ruth Larsen, Ann Ryer e io. Eravamo turisti innamorati della rivoluzione cinese, di Mao Zedong e del popolo cinese. Quelli di noi che avevano un carattere affettuoso, di tanto in tanto abbracciavano una guida o l'interprete. Altri speravano di poter, prima della fine del viaggio, passeggiare per le strade di Shanghai o di Canton, mano nella mano con un cinese del loro stesso sesso, proprio come facevano i cinesi, chiacchierando di politica, scambiandosi informazioni ideologiche. Di nascosto, ogni tanto, guardavamo dentro i cortili delle case per vedere la vita dalla quale, per quanto innamorati, eravamo esclusi. Quando ricominciamo a prestargli ascolto, il signor Wong stava accusando uno di noi di aver fatto delle foto senza permesso. «Dove? Quando? Come? Chi?» chiedemmo noi. Speravamo di non essere in procinto di subire l'ingiustizia socialista perché noi amavamo il socialismo. «Proprio qui, a Tianjin, davanti all'albergo», disse il signor Wong. «Ah, pensammo noi, è possibile». Sul lato opposto della strada rispetto all'albergo, nello splendido piccolo parco, la tentazione di scattare fotografie era terribile. Là i giovani giocavano a ping pong, gli anziani si esibivano in un lento tai chi. Per giunta, operai tessili di mezza età avevano lasciato la macchina da cucire per qualche giorno per partecipare alla creazione dei disegni delle stoffe che fabbricavano. Attorno al roseto disegnavano foglie e rose. Uno di noi poteva averlo fatto, poteva aver scattato una foto, troppo eccitato per chiedere «Posso farvi una foto?». Il signor Wong continuò. Il trasgressore, disse, aveva fotografato un contadino di ceto medio-basso che con sforzo e fatica tirava un carretto a due ruote carico di prodotti agricoli per la città. In cima al carretto c'era un bambino addormentato. «Ah, che fotografia!» La Cina, il carretto pesante, l'uomo che arranca, la strada stretta, un tempo una strada inglese, alti edifici allineati con fognature di prim'ordine per gli scarichi dell'impero inglese, come nei centri cittadini del libero Occidente. In primo piano, l'uomo che avanza a fatica, probabilmente porta primizia a un quartiere lontano, per poi tornare alla sua comune con secchi di puzzolente oro cittadino. L'atto, il gesto di fotografare, era stato denunciato da un vigile lavoratore cinese, furente per il tradimento di Antonioni. Il signor Wong puntò il suo dito politico contro il nostro brillante compagno Frederick J. Lawrence. «Lei», disse, «lei in particolare non è un amico». Stupore generale e tre risatine nervose. Immediatamente Ruth Larsen toccò la spalla di Fred in segno di solidarietà. «Freddy, non Freddy!» Joe Larsen saltò in piedi, andò alla porta, mise la mano sul pomello. Tutti noi avevamo dato per scontato che il colpevole fosse Martin, gioviale amico di tutte le rivoluzioni, veterano dell'organizzazione sindacale, amante della storia, fotografo appassionato. Prima della fine del viaggio aveva fatto 4.387 fotografie, nonostante la sua macchina fotografica si fosse rotta per 2 giorni. Non era propriamente rotta, semplicemente aveva chiuso l'occhio, esausta. Ruth, Ann e io avevamo discusso di Freddy. Da tempo Ruth pensava che si dovesse parlargli, ma non per le fotografie. In questa Cina, dove tutti gli adulti vestono modestamente in grigio, blu e verde, Freddy aveva calzoncini bianchi californiani, cortissimi, con camicia californiana color senape e, sopra il volto abbronzato e gli occhi azzurri, dorati ricci californiani. Lei non la trovava una cosa carina. «Ma chi sei tu, Ruth? Il commissario della biancheria?» aveva chiesto Ann. A colazione Ruth aveva cominciato a dirgli «Freddy!» Poi aveva pensato «Oh, ragazzi, ci risiamo, la tipica analisi dei vecchi, cioè la politica dura e ok se sostenuta dall'arma della dignità borghese». Così Ruth aveva detto «Ti dura davvero molto la tintarella, Freddy?» Fred chiuse gli occhi per pensare in solitudine. Patimmo 2 minuti di panico, esteso e generalizzato. Aspettavamo la decisione di Fred. Lui aprì gli occhi, poi si alzò nello stile dell'alta corte di giustizia per confutare. Il signor Wong fece un sorrisetto. Si guardò nuovamente intorno, scrutandoci tutti. Il dito venne nuovamente puntato. «Lei, signor Lawrence, è stato denunciato anche da un altro lavoratore per essersi introdotto in una fabbrica di tagliatelle». Grida «No, no, Cristo, via, sta scherzando!» 3 ragazzi che adoravano vedere noi anziani intrappolati in contraddizioni politiche o proditorie confusioni si limitarono a ridere. Uno di noi, Dwayne Smith, aveva investito i risparmi di una vita in questo viaggio. Per 6 anni aveva studiato cinese alla scuola serale per poter arrivare un giorno in questo posto e farsi capire dai cinesi in piazza Tiananmen. Lui non rise, sussurrò «Questo è un affare serio e se ci espellono?» Ruth disse «Mai!» «Introdotto dove?» disse Fred. «Joe!» gridò. «Disse oddio!» e si sedette. «Di che stava parlando quel China?» Joe Larsen masticava energicamente gomma americana senza zucchero. Fece un piccolo giro tondo di irritazione presso la porta. Poi si spostò dall'altra parte della stanza per guardare il signor Wong. Credeva in quella mossa. La sua politica si fondava sul fissare con sincerità l'occhio crudele del potente. «Signor Wong», disse, «sa, anch'io a Pechino ho visitato una fabbrica ambulante di tagliatelle, non lontana dall'albergo. Disse che voleva essere assolutamente chiaro. Era colpa sua se lui e Fred si erano fermati in quel negozio di tagliatelle della città di Tientsin. Prima di andare in Cina stava scrivendo un romanzo, un'utopia, una storia ipotetica di cui la piccola e indispensabile fiduciosa tecnologia della fabbricazione delle tagliatelle costituiva un breve capitolo. Gli era parso un buon presagio passare davanti a quella fabbrica di strada ed essere invitato a esaminare le tagliatelle fresche e penzolanti e quelle asciutte e rigide nei contenitori. Lui ammirava la macchina maneggevole che dava forma, tagliava ed espelleva le tagliatelle». «Perché ammette tutto questo?» disse Dwayne Smith. «Ci farà buttare fuori!» «Mai!» disse Ruth. Gli altri avevano sperato in ammissioni più interessanti. Joe faceva spesso lunghe passeggiate quando noi visitavamo luoghi di interesse culturale. A cena ci raccontava che aveva bevuto il tè con gli anziani, una condizione di cui amava considerarsi partecipe. Aveva traghettato insieme a rumorose famiglie cinesi sull'altra sponda di un fiume. In un distretto remoto, 2 vecchi stradini gli avevano mostrato come far sparire una buccia di banana. Alcuni di noi, più deboli di temperamento, erano invidiosi delle sue avventure. Si vergognavano un po' della propria timidezza quando lui raccontava, ma ora che veniva rimproverato si sentivano orgogliosi della propria disciplina di gruppo. «Signor Wong», disse Joe, «Fred ha accompagnato me. Non era solo. L'idea era mia. Vado matto per le vostre fabbriche ambulanti di tagliatelle. Fabbriche di strada, così le chiamate, no?» Il signor Wong guardò Joe. Poi fece come se non ci fosse, come se non fosse mai esistito. Al signor Wong non piaceva essere ostacolato proprio nel mezzo di un rimprovero politico. Inoltre sembrava restio ad accusare 2 persone contemporaneamente. «Perché? Forse accusare una sola persona era più preciso, richiedeva un solo dito e un solo monito severo. In ogni caso, ignorò Joe e l'interessante questione socialista delle fabbriche di quartiere decentralizzate. Disse: «Signor Lawrence, perché ha scelto di fotografare quel contadino?» «Come? Io? Io? Io?» Fred disse «Io?» così tante volte perché era, ed è, uno degli avvocati più prestigiosi del movimento. È avvezzo all'approvazione dei suoi pari e alla timidezza di coloro che si rivolgono a lui. Su di lui si può contare. Si accollerà il caso più disperato e con la sua preparazione legale e la sua esperienza politica costruirà la speranza e anche un elettorato furibondo. Così gridò ancora una volta. «Io? Oh, prenda i miei rullini, li prenda. Prenda la macchina fotografica, vedrà. Non c'è nulla, la prenda. Non mi piace nemmeno fare fotografie». Cercò di strapparsi la macchina fotografica dal collo. Non ci riuscì. «È vero, signor Wong», disse Martin, tentando un tono ragionevole, quello che un compagno dovrebbe usare nel rivolgersi a un altro compagno. «La mia macchina fotografica era rotta la settimana scorsa e Fred mi ha dato la sua. Per lui non era un problema». «Questo non ci interessa», disse il signor Wong. «Starete qui altri 12 giorni. Volevamo farvi capire che il popolo cinese è vigile». Fece il più minuscolo degli inchini, si girò e se ne andò. Alcuni di noi si raccolsero attorno a Fred, altri si raccolsero il più lontano possibile da lui. Più tardi, quella sera, fummo invitati a dividere il nostro patrimonio di tradizioni popolari con la Federazione delle Donne di Tianjin. Cantammo «I've been working on the railroad». Il pomeriggio del giorno dopo, Ruth parlò con Ho, una delle nostre guide. Ho piaceva a tutti perché quando faceva caldo si arrotolava i calzoni fino al ginocchio. «Sai», gli disse Ruth, «Fred è uno dei nostri più insigni avvocati dei poveri». «Ma a voi ragazzi non me ne importa molto della giurisprudenza, dico bene?» disse Anne. Anne è stata sempre un po' sarcastica. «Ve lo siete meritato», dissi io a Ho. «Chi ve l'ha chiesto di invitare Antonioni, stella dell'Occidente decadente? Scommetto che c'era un mucchio di gente meno conosciuta che moriva dalla voglia di fare quel film». «Lasciatelo in pace», disse Martin, sistemandoci con precisione dentro il suo obiettivo per scattare una foto di gruppo. Duane Smith disse «Per favore, lasciatelo in pace». Ho si era abituato alle nostre vessazioni. Rimboccò ancora un po' i calzoni sopra il ginocchio. «Ma è giusto, no?» disse. «Dovete chiederlo prima alla gente se vuole essere fotografata». «Sì», dissi io. «Ma non è questo il punto e tu lo sai, Ho. E domani, quando visiterete la campagna e i vivai di pesci, chiederete il permesso prima di fare una foto al contadino povero o medio-basso?» «Sicuro», disse Ann. «Chiederete anche ai bambini? Posso farti una foto?» «Ok, ok», dicemmo noi. «Rilassati, ce l'hai già detto 500 volte». Circa 3 mesi dopo, Martin ci invitò a una riunione a casa sua, tra cibo, diapositive, giudizi e commenti. Ci andammo in 12. Anne era partita per il Portogallo proprio quella mattina. Duane Smith aveva scritto dalla California per dire che naturalmente non poteva raggiungerci, ma pregava Martin di prestargli le sue diapositive sulla pesca per un paio di settimane e di spedirgliele per raccomandata aerea. Fred era sicuro di esserci. Doveva venire a New York per una settimana di conferenze. I 3 ragazzi erano presenti, avevano un'aria splendida, erano cordiali. 2 di loro si davano ancora un po' d'aria di politici duri, ma l'altro, che ci aveva preso in giro con ghigni e bronci, chiese se per cortesia potevano cominciare la serata prendendoci per mano e cantandoci «Ascolta, ascolta, ascolta il canto del mio cuore, non ti dimenticherò mai, non ti lascerò mai». Io dissi «Perché no? Stiamo a vedere cosa succede». Ruth disse «Dio mio, che ti prende? In ogni modo, dov'è Joe?» Qualcuno disse che dovevamo cominciare o a mangiare o a guardare le diapositive. Joe era decisamente impossibile, indisciplinato in 2 paesi. I più giovani con il fuoco della gioventù stavano facendo fuori tutto il formaggio. Joe arrivò 40 minuti dopo, affamato, sudato. «Devo raccontarvi cos'è successo», disse. Conoscete quel bel parco nel South Bronx, quello che piace a me, dove andavo a lavorare ogni tanto quest'estate? Beh, ho finito giusto un paio di ore fa. I ragazzi erano già andati a casa, c'era stata una grande festa, e io infilo la macchina fotografica e i film di Juan sulla festa nello zainetto. Sapevo che avrei rivisto tutti voi, così, tornando verso la metropolitana, ero distratto. Immaginavo la nostra conversazione, beh, ero emozionato, lo sapete che mi emoziono io. Quel quartiere schifoso. Ci ho passato parecchie settimane con i ragazzi che lavorano in estate, non solo al parco, ma anche nei cantieri, a costruire campi da gioco e quelle gigantesche spalliere che ti ho fatto vedere, Marti, ricordi? E a filmare per far vedere ai ragazzi, non che qualcuno veda, forse solo per avere una testimonianza. A volte, mentre stiamo tirando su un paio di travi, improvvisamente un edificio dall'altra parte della strada comincia a bruciare. Fumo, un gran fumo bianco, poi fiamme da tutte le finestre. I ragazzi del Bronx di solito non ci fanno caso, ma gli altri, ci sono anche dei portoricani, vengono come me dal Lower East Side e uno da Brooklyn, restano sbalorditi. Non riescono a crederci, un quartiere più duro del loro. Dopo le pompe antincendio, dopo il fuoco, quando tutto si raffredda, si divertono a guardare i drogati che buttano giù dalle finestre le condutture di ottone, autentico ottone vecchio. Alcuni di quei palazzi una volta non erano niente male. «Lo so», disse Ruth, «ci ho abitato». «Anch'io», disse Martin. «Giusto. Abbiamo qualche filmato, se mai vi andasse di vederlo. Sul lato della strada il palazzo che viene distrutto dal fuoco, sull'altro i ragazzi che cercano di costruire qualcosa». Comunque, era stata una giornata intensa, camminavo come in sogno. Passo davanti a una fabbrica. C'è un cartello. «Empleados necesitados». Faccio un paio di foto. Alcune donne escono dalla fabbrica. Dovevano essere le 5:30. Faccio cenni di saluto. Io scatto qualche foto e loro salutano ancora. Ora, dovete sapere che là, in quel quartiere, fra una ventina di palazzi abbandonati, ce ne sono sempre un paio quasi intatti. Di solito davanti a questi palazzi siedono uomini e ragazzi. Ecco cosa ho visto, solo un isolato o due dopo la fabbrica. Non pensavo di filmare ancora, ma avevamo bisogno di un paio di buone inquadrature di sfondo. I ragazzi o fanno panoramiche traballanti o riprendono senza guardare. Così comincio a girare una panoramica lenta dell'ultimo piano, finestre annerite e tetti bruciacchiati, e mentre la cinepresa riprende lentamente tutto quanto, vedo con la coda dell'occhio un gruppo di ragazzi su una gradinata. Erano a una certa distanza, suonavano la chitarra appoggiati a un muro, seduti su un materasso o sui gradini, con un paio di radioline. Ho provato una tremenda sensazione di disagio a includerli nella panoramica. In realtà non riesco a ricordare esattamente, li ho ripresi o mi sono bloccato. Forse volevo riprenderli, perché detesto quei servizi giornalistici stereotipati, capite? Poteva essere giusto, corretto, mostrare l'energia che hanno certe volte quei ragazzi nelle prime ore della sera, non solo i residenti semiaddormentati del famigerato South Bronx. Eppure so che in quel quartiere qualunque bianco non ispanico con una cinepresa in mano ha l'aria del poliziotto. Perciò metto via la cinepresa. Beh, cosa ho fatto a quel punto? Ho continuato a camminare verso la metropolitana, un po' alla svelta forse. Sapevo che era meglio sbrigarsi. Una decina di secondi dopo che ho cominciato a sentirmi al sicuro, sento qualcuno correre alle mie spalle. Una forma umana mi supera, strappandomi lo zainetto dalla spalla. Continuo a correre, scarta, taglia per un lotto vuoto verso la strada successiva. Era stato veloce e violento, però aveva semplicemente infilato il braccio nella cinghia appesa alla mia spalla, passandola dalla mia alla sua. Non mi aveva fatto male, un vero maestro. Tuttavia ero scombussolato. Mi fermo. Il cuore mi batte forte. Lo guardo. Mi giro. Alcuni uomini in fondo alla strada stanno ridendo. C'eravamo solo noi in tutto quel lungo isolato carbonizzato. Cosa potevo fare? Ho ripreso il mio interminabile viaggio verso la metropolitana, ma non riuscivo a sopportare l'idea che finisse così. Volevo che sapessero chi ero. E poi non volevo aver paura di andare in quel quartiere. Io lì ci lavoro, maledizione. Non so se fossero queste le vere ragioni. Comunque, dovevo parlare con quegli uomini. Così torno indietro e li affronto. ridono. Io dico: sentite, lo so che probabilmente non è stata una grande idea girare quel film sopra le vostre teste, ma non credo di avervi ripreso. Dissi che probabilmente mi conoscevano, lavoravo a pochi isolati da lì, almeno un paio di loro dovevano avermi già visto da quelle parti. Dissi che il filmato che avevo girato non era particolarmente importante, ma che il resto del materiale era stato girato dai ragazzi del Youth Corps e che ci sarebbero rimasti male. Il tipo sul gradino più in alto dice: che storia triste, amico. Alzo gli occhi. Sopra di noi, sulla scala antincendio, quello che mi ha strappato lo zainetto sta sfilando la pellicola dalla cinepresa. Saltella, balla, ride. Ok, dico, come un idiota. Di quello non mi importa, davvero. Ma l'altro film lo vorrei. Niente da fare, dice lui. Insisto, non è mio, è dei ragazzi della 141esima strada. Poi, semplicemente resto lì a fissarli. Non mi muovo. Non posso muovermi. Dovevo avere proprio l'aria del cretino. Forse mi hanno riconosciuto. Comunque, si sono consultati frettolosamente in spagnolo, poi il capo, quello sul gradino in cima, grida: Paco, porta giù quella roba. No, no, dice Paco. Stava drappeggiando la pellicola sulle sbarre della scala antincendio. Portala giù, dice il gradino più alto. Paco ha l'aria assolutamente avvilita, ma consegna lo zainetto. È disgustato. Ho detto: tante grazie. E loro hanno detto: ok, bello. A quel punto ho fatto una cosa strana. Perché? Non lo so. Ho detto: del film ho bisogno, è vero. Ma ecco, prendete la cinepresa. No, no, dice il capo. Prendila, dico io. No, no, sei matto, bello. Sentite, prendetela, usatela. Noi verremo ad aiutarvi. Potete fare un film. Non la voglio, sei sordo? No, no. Dico, dovete prenderla. Io sarò la 143esima strada. Gliela caccio in mano, mi allontano rapidamente ed eccomi qui. Questa è la storia. Che ne pensate? A roba dell'altro mondo, disse Ruth. Lascia perdere l'altro mondo, disse Joe. Mi spiace avervi raccontato tutto, non so perché l'ho fatto. Devo essere matto. Martin disse: so perché hai raccontato questa storia. Volevi dimostrare che anche se possiedi una cinepresa, non sei il padrone del mondo. E tu lo sai. Questo è quello che pensi tu, disse Joe. Io credo di averla raccontata solo perché mi è capitata. Non farne una grande questione di marxismo. Ok, non te la prendere, disse Martin. Cominciò a trafficare col proiettore. Ora state calmi, disse. Mettetevi tutti a sedere. Ruti, spegni la luce. Aspettate e vedrete che colore, ragazzi. Numero uno. Eccolo, quel vecchio. Regge il nipotino vestito di rosa e arancione. Dove eravamo? Oh, Cristo, disse Joe. Come fai a scordarti tutto? Eravamo nel cortile di un villaggio vicino a Nanchino. Francesca Gatto ha letto Grace Paley, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.